teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Vicond è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 16 ottobre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Cari radioascoltatori, in questa puntata ci occuperemo di acceleratori di particelle. Oddio, ce ne siamo occupati già nel passato di acceleratori di particelle, in realtà però in questa trasmissione ci occuperemo di un futuro, forse futuro, acceleratore di particelle che verrà costruito in Italia. Si chiama Super B e ne parleremo col professor Pantaleo Raimondi, responsabile della sezione acceleratori dell'INFN di Frascati. Buongiorno professor Raimondi. Buongiorno a lei. Professor Raimondi, nella trasmissione, adesso diciamo più o meno come sarà strutturata la nostra trasmissione, nella prima parte cercheremo di capire che cos'è un acceleratore di particelle e come si possono dividere i vari acceleratori di particelle che sono sparsi in questo momento nel mondo. Mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di parlare effettivamente di Super B. Super B fondamentalmente è un acceleratore di particelle che cercherà di far collisionare elettroni e antielettroni che vengono chiamati poi positroni. Ora professore, se dovesse spiegare a un pubblico radiofonico che cos'è un acceleratore di particelle in 100 parole, che poi sono le 100 parole iniziali con cui introduciamo Caccia al Fotone, lei come lo spiegherebbe? Insomma, domanda abbastanza tricky, difficile. Comunque diciamo in pratica siamo tutti abbastanza familiari con gli acceleratori di particelle, per esempio i vecchi televisori, quelli a tubi a raggi catodici, il tubo a raggio catodico è un acceleratore di particelle che accelera elettroni a 18.000 volt e li sbatte contro lo schermo. Poi noi facciamo acceleratori molto più potenti, per esempio quello di Frascati arriva a 500 milioni di volt, e poi acceleratori più potenti come il LEP arrivava a 100 miliardi di volt, e l'HC accelera a 10 migliaia di miliardi di volt. Quindi un acceleratore di particelle, detta in parole povere, è un sistema in cui delle particelle subatomiche vengono accelerate, si scontrano e nello scontro si formano nuove particelle e i fisici, tentando di studiare nuove particelle, cercano di capire la fisica che c'è sotto. Sì, sì, certo, questa è poi l'applicazione, proprio quella in cui effettivamente, come nel caso appunto di far scontrare due automobili una contro l'altra, si vedono i pezzi che escono fuori dall'incidente, si capisce di che cosa sono formate le automobili. La stessa cosa facciamo noi con queste particelle piccolissime. Professor Raimondi, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione, come abbiamo già annunciato, parleremo dei vari acceleratori di particelle per cercare di capire che cos'è un acceleratore di particelle e quali sono le varie differenze che ci sono fra acceleratore e acceleratore, perché nessun acceleratore è uguale all'altro. E nella seconda parte della trasmissione cercheremo effettivamente di parlare di Super B, un acceleratore che forse verrà costruito, speriamo tanto, qui in Italia. A dopo. Don't worry, photographs on the ground. Where I see smiling faces, happy times, the rain falls and soon I'll drown. Emotions that I can't explain, fear is walking side by side with truth. Now it's raining even more, I see the signs and yeah, I'm sure. Oh, so I'm sorry, I pulled you down. E bentornati in studio, cari Red Ascoltatori. In questa puntata qui a Cacciafotone ci stiamo occupando di acceleratori di particelle. Di acceleratori di particelle ne abbiamo parlato molto nel passato, abbiamo parlato di LHC durante la sua apertura, abbiamo cercato di capire che cosa faceva LHC, abbiamo parlato dello scontro a 7 TeV nel centro di massa che avvenne qualche mese fa. Ma a questo punto, in questa puntata, ci occuperemo non di un presente, ma ci occuperemo di un futuro prossimo, in cui forse qui in Italia verrà costruito un acceleratore di particelle in cui si scontreranno elettroni e positroni. Si chiamerà Super B. Di questo ne stiamo parlando col professor Pantaleo Raimondi, responsabile della sezione acceleratori presso l'INFN di Frascati. Professor Raimondi, abbiamo detto all'inizio che non c'è un acceleratore uguale all'altro. Citandoli potremmo dire che esiste il LEP, un collisionatore di leptoni, l'LHC che è un collisionatore di adroni, il Tevatron che è un collisionatore di protoni e antiprotoni e poi il futuro Super B. Se lei dovesse dividere e cercare di spiegare come funzionano l'uno e l'altro, ovviamente non voglio tutta la spiegazione, ma cercare di capire quali sono le differenze grosse, come le spiegherebbe? I principi di base sono identici, soprattutto appunto per quelli che ha citato lei. Sono degli acceleratori circolari in cui le particelle girano in questo acceleratore appunto alla velocità prossima a quella della luce. Poi ci sono, adesso ormai sono due anelli quasi tutti gli acceleratori, in cui in un anello girano le particelle, nell'altro anello le antiparticelle, per l'appunto per esempio i positroni, e poi si scontrano in un punto. Per quanto riguarda le differenze peculiari tra LHC che accelera protoni e antiprotoni, e per esempio la Super B, e analogamente anche l'EP, in cui si accelerano elettroni e antielettroni e positroni, la differenza particolare è quello che si riesce a fare per esempio con la Super B. La sua caratteristica è riuscire a fare dei fasci di intensità fortissima e super focalizzati, per intenderci come un raggio laser paragonato a una lampadina. La Super B riesce a fare dei fasci così piccoli e riesce a produrre delle luminosità elevatissime, quindi molte collisioni, riesce a produrre particelle nuove con una rete, con una quantità proprio senza precedenti. Professore, nella seconda parte della trasmissione ci soffermeremo più su Super B per cercare di capire come esattamente è composto. Ma perché alcuni acceleratori accelerano particelle leggere e invece altri acceleratori accelerano invece particelle fondamentalmente pesanti? Le particelle leggere, che sono appunto dette leptoni, dice anche il nome, hanno la caratteristica, soprattutto gli elettroni e gli antielettroni, in loro non risentono di certi particolari tipi di forze. In questo caso particolare loro interagiscono solo in modo elettromagnetico, proprio perché sono le particelle cariche e non sono dotate di carica forte, diciamo, come i protoni. Quindi si riesce a fare degli esperimenti molto più, in qualche modo, puliti, molto più di precisione, mentre con i protoni e gli antiprotoni, quando loro si scontrano, si producono molte più particelle, che addirittura vengono chiamate di background, che rendono più difficile capire che cosa veramente c'è sotto. Più difficile, però ovviamente non impossibile, perché poi i risultati ci sono. Però con le di leptoni, per esempio anche sull'epera la stessa cosa, sono fatte delle misure di precisione assolute, si riesce veramente tipo con un bisturi a sondare esattamente quello, i dettagli delle teorie. Professore Mondi, come mai la scelta di costruire gli acceleratori di particelle viene fatta sempre costruendoli ad anello? Diciamo questa scelta adesso inizia a barcollare, nel senso che c'è stata questa tendenza a costruire acceleratori sempre più grandi per raggiungere sempre energie più elevate, sempre per sondare più in profondità la struttura delle particelle. Si vede, soprattutto per i leptoni, che per aumentare l'energia di questi acceleratori, lo scaling, quanto scala con l'energia, la grandezza di un acceleratore, purtroppo non è lineare, soprattutto per i leptoni. Quindi si devono fare sempre, per esempio per raddoppiare l'energia si deve fare degli anelli quattro volte più grossi, in modo appunto che il fascio, le particelle quando girano intorno all'acceleratore vengono accelerate, però anche perdono un po' di energia, come quando una macchina quando fa una curva si slittano un po' le ruote e un po' frena, quindi analogamente, diciamo, il discorso è sempre analogo. Si stanno studiando anche altri tipi di acceleratori, sono detti lineari, in cui questo scaling appunto è lineare, e probabilmente questi saranno poi gli acceleratori del lontano futuro, lontano nel senso fra 10-20 anni. Senta, un altro problema degli acceleratori di particelle sono questi specie di indirizzatori dei fasci, cioè i cosiddetti supermagneti. Ora, perché si sceglie di mettere dei supermagneti per indirizzare un fascio e non, per esempio, dei grandi solenoidi all'interno dei quali far passare il fascio? Diciamo analogamente con quello, col paragone che ho fatto con le automobili. Queste particelle, insomma, sono molto energetiche e per farle girare si fa appunto con questi campi magnetici. Per fargli fare delle curve più strette, quindi avere degli acceleratori alla fine con un raggio di circonferenza ragionevole, questi campi magnetici devono essere il più intensi possibile, fortissimi. Al momento questi campi magnetici così intensi si riescono a produrre solo con questi magneti superconduttori, in cui si riescono a generare dei campi magnetici potentissimi solo in questo modo. Professore Mondi, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e la parte più grossa della trasmissione la dedicheremo espressamente a Super B, che è poi l'argomento di cui vogliamo trattare all'interno di questa puntata di Caccia al Fotone, per cercare di capire come sarà strutturato e soprattutto a quali tipi di energie si arriverà e quali tipi di particelle verranno a scontrarsi. A dopo. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, siete sempre all'ascolto di Caccia Fotone qui su Radio Città Fugico. Un benvenuto sia a coloro che ci stanno ascoltando tramite la radio www.radiocittafugico.it e sia a coloro che ci hanno scaricato tramite il podcast di Caccia Fotone, che è www.cacciafotone.it. In questa puntata ci stiamo occupando di acceleratori di particelle. Ora, di acceleratori di particelle ne abbiamo parlato anche nel passato, ma ce ne stiamo occupando espressamente perché nel futuro alcuni acceleratori di particelle, meglio un acceleratore di particelle, verrà costruito qui in Italia, si chiamerà Super B. Per parlare di questo acceleratore di particelle abbiamo al telefono il professor Pantaleo Raimondi, responsabile della sezione acceleratori dell'INFN di Frascati. Professor Raimondi, a questo punto entriamo nell'argomento fondamentalmente perché qualche giorno fa a Frascati c'è stato un convegno proprio su Super B. Ma in questo convegno, composto peraltro dalle maggiori menti della fisica mondiale, di che cosa si è parlato? Noi facciamo dei convegni periodici, questo penso sia il 14°, si tengono più o meno in varie parti del mondo, questo si è tenuto a Frascati e in pratica si fa un sommario dello stato dei lavori e dell'avanzamento del progetto in generale, quindi sia per quanto riguarda l'acceleratore e sia per quanto riguarda poi gli esperimenti che saranno effettuati sull'acceleratore stesso. Professore, stiamo entrando a grandi basi all'interno dell'argomento della questione, cioè stiamo cercando di capire come sarà composto questo Super B. Questo acceleratore di particelle è un acceleratore composto per far scontrare elettroni ed antielettroni, quindi elettroni e positroni. Perché si è scelto questo fenomeno in luogo per esempio di un altro come protoni ed antiprotoni? Perché con questo studio particolare è un'energia a cui si producono in grande quantità particelle dei quark pesanti, chiamati B, bottom quarks. La scelta esatta sia delle particelle che dell'energia che si riesce a produrre una quantità di particelle fenomenale, grazie alla quale appunto queste particelle e poi tutti i processi collegati poi al decadimento, alla trasformazione di queste particelle in altre particelle, si riescono a studiare in estremo dettaglio, a ricavare proprio delle informazioni fondamentali su come proprio interagiscono queste particelle, sulla loro natura. Professore Raimondi, cerchiamo di spiegarla meglio. Allora, all'inizio dell'universo la quantità di materia e di antimateria era fondamentalmente la stessa, poi è successo qualcosa che cercherà di indagare Super B, e quel qualcosa ha generato la vittoria della materia versus l'antimateria. Ora, quello che cercherà di fare questo acceleratore, se non ho capito male, è cercare di capire come mai la materia abbia vinto sull'antimateria, giusto o sbagliato? Sì, no, è giustissimo, questa ricerca comunque avviene su molti fronti, anche l'HC affronta lo stesso problema e anche con gli esperimenti che facciamo a Frascati si affronta lo stesso problema, che è uno dei punti critici al momento di tutte le teorie, insomma, che prevedono una quantità di materia e di antimateria nell'universo praticamente identiche. Senta, come mai i mesoni B all'interno di questo acceleratore sono così importanti? Poi cerchiamo di spiegare che cosa sono i mesoni B di cui ha accennato prima. Sì, è più o meno collegato, in cui si vede che effettivamente queste particelle hanno sia dei comportamenti, appunto dallo studio dei comportamenti previsti si riesce veramente a quantificare con estrema precisione quelli che sono i parametri fondamentali delle teorie attuali, e sia nel studiare eventuali discrepanze tra quelle che sono le previsioni si potrebbe appunto aprire gli orizzonti sia a nuove teorie e sia appunto a, come accennava lei, a possibili spiegazioni di cose che al momento non sono ben chiare. In particolare c'è anche la speranza di capire se certi processi, senza andare troppo in dettaglio, ma certi processi che dovrebbero essere completamente simmetrici, dei processi anche intuitivamente sono completamente simmetrici, tipo l'inversione temporale di un evento, senso che, per esempio, se si prende una palla e la si fa rimbalzare contro il muro, la cosa è analoga se si inverte il processo, si ottiene sempre lo stesso rimbalzo. In effetti, in fisica, in questa fisica subnucleare, si pensa che questa proprietà possa non essere vera. Nella Super B si spera di poter effettivamente trovare queste discrepanze, insomma, se sarebbe veramente un grosso successo. Senta, la tecnica che verrà sperimentata su Super B viene derivata direttamente dall'acceleratore laboratorio di Frascati, che si chiama Daphne, e questa tecnica l'ha inventata lei, si chiama il Crab Waste. Ce la puoi spiegare? Sì, questa idea è nata praticamente da tutti gli studi che si sono fatti negli scorsi anni per riuscire a generare, appunto, dei fasci di particelle estremamente piccoli. Questi fasci di particelle estremamente piccoli possono essere fatti collidere uno contro l'altro, ed effettivamente il numero di collisioni che si riesce a ottenere, quindi di particelle che si riescono a produrre, è elevatissimo. Quello che succede però è che in questa collisione devono essere continuamente rinnovati per poter appunto continuare a produrre sempre particelle. Abbiamo messo a punto questa tecnica in cui questa collisione tra fasci di particelle non è distruttiva, ma si riesce a focalizzarli enormemente e poi a riutilizzarli all'infinito. Grazie a questo veramente si riesce a produrre una quantità di particelle enorme. Cioè, fondamentalmente, quando le particelle si sono scontrate una volta, poi tornano a scontrarsi un'altra volta sempre con lo stesso fascio? Sì, esatto, e in pratica quello che si vede è che questo processo, insomma, può durare su tempi, diciamo, macroscopici. Chiaramente poi mano a mano qualche cosa sempre si perde, ovviamente, però la rete di perdita è completamente accettabile, trascurabile, diciamo. Si può veramente ottenere dei risultati che sono superiori a quello ottenuto finora, insomma, nel passato. Senta, cerchiamo di entrare nel dettaglio, tra virgolette, tecnico di Super B. A che energia si arriverà dentro Super B e quanto sarà largo Super B? Sì, le energie della Super B sono circa 10 GeV. Lei ha già accennato che l'HC invece è dell'ordine di 1000 volte di più, però appunto 10 GeV è l'energia a cui si producono appunto queste B in estrema quantità. Per quanto riguarda il progetto di studio, l'acceleratore è circa 1,2 km di circonferenza. Sta sviluppando un progetto analogo in Giappone, dove l'acceleratore, loro utilizzano già un acceleratore preesistente, 3 km di circonferenza. Bisogna anche considerare che anche il Giappone ha adottato la stessa soluzione per il progetto, perché effettivamente sembra che sia l'unica possibilità per poter appunto fare questo balzo in avanti nella produzione, nella luminosità di questi acceleratori. Professore Mondi, io qua sotto mano, sotto gli occhi, il progress report del Super B, meglio ancora è il paper che descrive un pochino i contenuti del 14° congresso che si è tenuto a Frascati. Ho guardato un po' i nomi sono fondamentalmente molti di quelli che lavorano presso il grande collisionatore di adroni a Ginevra, quello che meglio conosciamo come LHC. Ecco, la mia domanda è questa: che vantaggi tecnici, che vantaggi scientifici fornirà questo Super B che possano giustificare una sua costruzione proprio qui in territorio italiano? Diciamo, l'innovazione principale è proprio questa, quella di poter produrre dei fasci di particelle di dimensioni senza precedenti nel passato. Sono dimensioni dell'ordine dei nanometri, quindi veramente entriamo in un nuovo regime. Per riuscire a controllare questi fasci di particelle così piccoli, ovviamente ci si prevede un balzo proprio a livello tecnologico e proprio di manipolazione di fasci con gli acceleratori, ovviamente 100 volte più sofisticato delle tecniche attuali. Giusto per farle un paragone, questi fasci sono circa 100 volte più sottili dei capelli umani, si devono far scontrare uno contro l'altro continuamente, a livello tecnologico è una cosa veramente formidabile. Senta professore, all'interno di LHC ci sono quattro grossi esperimenti, all'interno del Tevatron ci sono due grandi grossi esperimenti. Quanti esperimenti avete deciso di installare dentro Super-B? Al momento il progetto prevede solo l'installazione di un solo esperimento, tra l'altro per grossa parte basato sul riammodernamento di un esperimento, di un detector, di un rivelatore che funzionava a Stanford. Comunque in questo acceleratore si prevede, in ogni caso, dato che le caratteristiche di questi fasci sono senza precedenti, si prevede l'installazione di altre facility, altre facility sperimentali basate sull'emissione di luce che questo fascio comunque genererà, cioè gli elettroni quando girano e anche gli antielettroni quando girano nell'anello emettono della luce intensissima, molto collimata pure, e con questa si possono fare molti studi sia di biologia che a livello di nanotecnologie. Senta professore, le faccio l'ultima domanda che poi conclude un po' la trasmissione di questo sabato. È la domanda meno scientifica di tutte, però è la domanda forse più scomoda di tutte. Ora siamo arrivati al 14° convegno, ci sono i fondi per costruirlo questo acceleratore oppure siamo come al solito indietro con i fondi, aspettiamo che il governo decida di finanziare qualcosa che in teoria dovrebbe essere costruito in una nazione che ha avuto un passato storico come la nostra, quindi l'Italia? Ovviamente i fondi non ci sono al momento, se no saremmo forse probabilmente parlando su un piano diverso. Comunque c'è la probabilità di avere dei finanziamenti è molto elevata, dato che sia a livello di governo, di Ministero della Ricerca c'è molto interesse per il progetto, cioè molto sentite quelle che sono le possibili implicazioni, come ha detto lei, sia a livello ovviamente più banale di prestigio a livello nazionale e internazionale, perché porterebbe veramente l'Italia a essere probabilmente giusto seconda al CERN come livello di esperimenti e tecnologia. Quindi sicuramente c'è molto interesse anche da altre strutture, quelle che possono appunto utilizzare altre caratteristiche di questi acceleratori, come dicevo prima, la luce sincrotrone, e tra l'altro c'è molto interesse a livello anche di collaborazioni internazionali, sia degli americani che dei russi e dei francesi in particolare, che sono disposti già ora a contribuire in maniera significativa proprio finanziariamente al progetto stesso, forse quasi al 50%. Quindi da questo punto di vista, insomma, basterebbe abbastanza poco, diciamo, da parte del governo, da altre strutture nazionali per poter avviare il progetto stesso, insomma. Ovviamente un grosso finanziamento a livello locale per poter andare avanti. Professor Raimondi, intanto le faccio in bocca al lupo per questo progetto che mi sembra come dire, abbastanza auspicabile per una nazione come l'Italia. Intanto saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti.